9 di Radio Onda Rossa in questa mattinata molto molto densa, ma ci piace che sia così. E adesso abbiamo al telefono una compagna che chi ci ascolta, la cui voce chi ci ascolta conosce bene, una compagna che ci è stata di grande aiuto durante le mobilitazioni per Piazza Taksim a Istanbul. Adesso si trova in Italia, ma con lei vorremmo parlare di un aspetto delle mobilitazioni che ci sono state in Turchia nei giorni scorsi in appoggio ai combattenti curdi a Kobane e non solo, contro appunto lo Stato islamico, e quindi a lei la parola. Buongiorno, ciao. Ciao. Allora, intanto tu ci dicevi, quando abbiamo parlato insomma, per preparare questo collegamento, che è difficile avere notizie sulla situazione in Turchia rispetto alle mobilitazioni, perché sì, la stampa è abbastanza uniforme e quindi non dà abbastanza filo governativa, e quindi è difficile avere informazioni oltre quelle che sono sulla stampa internazionale, mi pare di una ventina di morti, sì, e di manifestazioni in gran parte delle città turche. Sì, soprattutto quelle che si trovano, a parte Istanbul e Ankara, proprio al confine, lungo il confine turco, e nella, diciamo, chiamiamolo così, nel Kurdistan turco, anche se a rigore ancora non si può parlare di questo. Diciamo che è un po' difficile riuscire a capire dalla stampa turca come sono differenziati al loro interno questi movimenti, che poi sono, diciamo, sono degenerati in maniera molto violenta dal 7 ottobre. Quello che è, diciamo, emerso e che mi sembra non sia passato poi nella stampa italiana è che gli scontri non sono solo avvenuti, come sempre, fra sostenitori dei curdi che resistono a Kobane e che fra l'altro desiderano andare a dare un supporto non solo ideologico ma anche materiale e polizia, ma anche all'interno del movimento all'interno della compagine curda, per cui in realtà 10 fra i 20 morti sembrano essere fra file del partito rivoluzionario giovanile del PKK, e questo partito, che si chiama Hudapart, partito della legalità, che è erede di questo movimento, di questa organizzazione di curdi islamisti radicali sunniti, e che ha una in realtà una storia molto lunga, che sono noti in Turchia con il nome appunto di Hezbollah turchi. Hezbollah in arabo significa partito di Dio, e non sono affiliati agli Hezbollah libanesi, sono comunque appunto musulmani, sono musulmani sunniti a differenza di quelli libanesi che sono sciiti, e la loro formazione e nascita risale al 1978-79. In realtà sono noti soprattutto perché sono stati coinvolti durante gli anni più aspri della guerra fra Stato turco e PKK, dallo Stato turco nella cosiddetta gladio turca, nello Stato profondo, contro i guerriglieri turchi e curdi. Tra l'altro il conflitto fra queste due fazioni è stato così violento che dai vari media che ho consultato, anche alcuni curdi in lingua inglese, il numero di morti, che poi non sono mai stati né riconosciuti né c'è stato un processo, oscilla fra i 500 e gli 800. Oggi questi esistono ancora, l'erede, il partito erede di questi Hezbollah ha raccolto alle passate elezioni una percentuale risicatissima, 0,23%, e questi diciamo si difendono in questi giorni dicendo che sono stati attaccati per primi da tutti i curdi che sostengono i combattenti e il fronte anti-ISIS, che sono stati attaccati in quanto appunto poi fondamentalmente il PKK è una formazione in origine marxista-leninista, secolarizzata, fortissimamente secolarizzata, per cui quelli che sono scesi in piazza sono sostanzialmente laici, che quindi hanno preso di mira tutte le strutture religiose, tra cui anche quelle di questo gruppo, che quindi in questa frangente accusa addirittura il governo, dicendo che ha chiuso un occhio di fronte appunto alle aggressioni per cui si sono trovati a doversi difendere da soli, aggredendo a loro volta, e sostengono appunto che il governo stia chiudendo un occhio, perché se andasse in loro difesa il processo, questo insomma processo di pace iniziato due anni fa fra appunto Öcalan, il leader del PKK, e il governo turco, si annullerebbe immediatamente. Quindi il governo in questo momento è accusato su due fronti: da una parte i curdi lo accusano proprio di sostenere non solo ideologicamente ma di aver anche alimentato economicamente e logisticamente il fronte ISIS in quanto sunnita e in quanto anti-Assad, e dall'altra accusato appunto da invece questi curdi radicali e molto violenti, appunto molto di stampo fascista in passato, di fare la stessa identica cosa per altre ragioni, appunto per non far arenare del tutto il processo di pace, che comunque non è mai stato così. Mi sembra un po' improbabile così, anche nonostante insomma le scarse conoscenze che abbiamo, ma un po' di esperienza di questo tipo di cose c'è, per cui direi che va ribaltata un po' questa lettura, certo, che danno questi islamici curdi, nel senso che probabilmente invece sono stati proprio usati come contrapposizione, certo, armata, perché insomma, ci sono molti morti da colpi d'arma da fuoco contro proprio questa mobilitazione non solo curda, ma a quelle poche notizie che abbiamo, sì, anche di appoggio curda da parte di compagni turchi, sì, insomma, sì. Tra l'altro ieri a Istanbul gli studenti delle università e anche ad Ankara due giorni fa sono stati attaccati, e credo che appunto gli studenti poi attaccati dalla polizia mentre cercavano appunto di manifestare a Istanbul, per esempio nella solita famosa via Istiklal, e credo che appunto fra questi non ci siano solo curdi. Ho cercato il più possibile di capire come erano composti i movimenti di studenti scesi in piazza, ma non si riesce a capire, si parla così genericamente di studenti, e visto che già durante il movimento di Gezi e dopo molti studenti turchi avevano esibito degli striscioni con slogan di sostegno per la prima volta ai curdi, non mi pare assolutamente improbabile che stiano facendo altrettanto, cioè comunque qualche cosa sta cambiando anche in Turchia, anche a livello appunto di consapevolezza nella parte della società più giovane, anche più scolarizzata. Volevo chiederti, Natalia, una valutazione, visto che tu hai vissuto abbastanza da vicino l'esperienza di Gozi, di Gezi, scusa, di Gezi Park e tutti i movimenti che ci sono stati. Questi scontri e quindi questa situazione al confine siriano-turco, come è vissuta da quei movimenti progressisti che si erano espressi in quel periodo? Insomma, c'è stato qualche manifestazione di appoggio, qualche presa di posizione, oppure passa un po' nell'indifferenza? No, non passa assolutamente nell'indifferenza, anche per il semplice motivo che Istanbul è piena di rifugiati siriani. Come sapete, in questi giorni il numero di siriani che hanno passato il confine è stato molto alto, si parla appunto di 100.000-180.000 persone, ma in tutta la Turchia, specialmente concentrati a Istanbul, vivono circa 1,5 milioni di rifugiati. E a Istanbul c'è una presenza molto forte, io stessa avevo tantissimi amici rifugiati siriani che chiaramente poi vanno a vivere a Istanbul nell'attesa di trovare un modo per fuggire ulteriormente, rifugiarsi in paesi dove per certe politiche appunto legate alla questione siriana, all'immigrazione, riuscirebbero anche a ottenere immediatamente un permesso di soggiorno e lo status di rifugiati che la Turchia comunque non riconosce ancora. Per cui la situazione siriana era più che attuale, più che sentita, ufficialmente anche dai partiti governativi c'era un appoggio dal punto di vista appunto delle risorse quotidiane di cibo e denaro. Certo, questi non avendo l'asilo, non godendo dello status di rifugiato, non possono lavorare, quindi tutti i siriani che io conoscevo e anche quelli di cui ero venuta a conoscenza si trovavano occupazioni a livello illegale. Invece in maniera informale i giovani, la popolazione diciamo più giovane, non solo turca ma anche curda, sentiva molto profondamente il bisogno di innanzitutto diffondere una certa consapevolezza della gravità del problema e poi anche di aiutare in maniera concreta, per cui da appunto punti di scambio di qualsiasi cosa fosse necessaria per aiutare tutti i rifugiati che arrivavano, compresi maglioni, coperte per affrontare l'inverno, a campagne di sensibilizzazione. Il problema siriano era fortissimamente sentito. Fra l'altro appunto in realtà riguarda la stessa Turchia, perché la Siria condivide un lunghissimo tratto di confine con la Turchia. Ecco, ma diciamo lo scenario è un po' cambiato, no? Anche dal punto di vista dei rifugiati, perché diciamo in un primo momento questi rifugiati erano accolti in virtù del fatto che del regime di Assad, oppressore eccetera, quindi la Turchia aveva fatto questo bel gesto. Oggi si tratta anche di molti rifugiati curdi che non è che scappino dal regime di Assad, scappano dall'avanzata dell'ISIS, quindi certo. Questo credo che crei un po' di... È questo che ha creato questo impasse politico, per cui il governo in effetti il Parlamento ha approvato una richiesta, una mozione per l'intervento, ma poi a conti fatti non ci sono, i carri armati stanno lì al confine. A guardare, sì. Certo, a guardare, perché ora il problema è sconfiggere Assad, sconfiggere l'ISIS, ma senza che i curdi ne escano rafforzati, anche perché questa vicenda sta intensificando, sta rendendo molto più forti i legami fra le varie organizzazioni curde turche siriane, che comunque già c'erano, ma in questa occasione fanno proprio fronte comune. E anche questo che ha portato fra l'altro il governo turco a chiedere che venga istituita una no-fly zone, una zona cuscinetto, il che in realtà preoccupa un po' tutti, perché significherebbe proprio un allargamento della Turchia in territorio siriano. Sì, però dal punto di vista a Istanbul il problema viene percepito sempre nella stessa maniera. Quello che è successo recentissimamente è che nelle città al confine con la Siria si sono verificati episodi di violenza a danno dei siriani che stavano lì, dei curdi, che sono in prevalenza poi fra l'altro curdi, perché appunto la Turchia poi nei primi tre anni, non solo, in realtà questo poi ha anche indotto il governo un pochino a chiudere le porte, per cui negli ultimi sei mesi molto spesso alcune zone di frontiera non sono più rimaste aperte, sono state bloccate, per i siriani era praticamente quasi impossibile entrare in territorio turco. chiaramente perché nei primi 3 anni di conflitto la Turchia un po' ha avuto una politica in questo senso anche non di tolleranza, proprio di aiuto, di sostegno, ha aperto indiscriminatamente tutte le frontiere, c'è stato un flusso enorme, solo che questo è arrivato alla saturazione, per cui i cittadini stessi in alcune città molto conservatori, magari alcune persone molto hanno attaccato fisicamente con tanto di bastoni, e la loro diciamo accusa principale è che questi poi siriani vanno lì ad occupare le loro case, le loro strade, addirittura a lavorare al posto loro. Questa cosa fra l'altro ricorda un po' anche alcune diciamo esternazioni di tanti italiani contro ricorda molto, sì. Vengono a rubarci il lavoro persone, certo, che magari lavano i vetri agli... La situazione davvero è identica dal punto di vista proprio dell'attitudine verso il diverso, verso lo straniero, verso chi c'ha bisogno. Senti, un'ultima cosa, Natalia, questo diciamo questo atteggiamento di Erdogan, che perdona la pronuncia, non ti preoccupare, va bene così. Questo atteggiamento del primo ministro turco nei confronti del presidente della Repubblica, non è più il primo ministro. Non è hai ragione, giusto. Presidente della Repubblica, nei confronti dell'ISIS, lui ha insomma notoriamente atteggiamenti filo-islamisti, diciamo così, di carattere moderato, così viene presentato, però è altrettanta nota, anche se gli si dà poca pubblicità, al suo aiuto all'ISIS, no? Sì. Ci sono proprio accuse serie e molto... Ecco, ma sta prendendo piede questa opposizione, perlomeno anche democratica, se vogliamo, a questo comportamento ambiguo, oppure è tenuta sotto controllo? E in che senso è tenuta sotto controllo? Ma sia a livello di organi di stampa, sia a livello di opposizione dei partiti politici in Turchia. Sì, è tenuta sotto controllo. Ufficialmente chi accusa il governo di aver finanziato, appoggiato non solo ideologicamente l'ISIS, sono solamente i partiti curdi, anche appunto il BDP, che è il principale partito legale appunto dei curdi presente in Parlamento, però già da parte del partito repubblicano, no? Il partito principale partito di opposizione, queste accuse non sono assolutamente così dirette e così forte. Certamente si riconosce nell'opposizione un atteggiamento quantomeno ambiguo del governo nei confronti di questa formazione che sta appunto imperversando con tanta violenza, questo diciamo in via del tutto ufficiale. Purtroppo non vivendo lì non posso raccogliere quello che dicono chi vota anche il partito repubblicano, però per strada non ho purtroppo più possibilità di attingere informazioni dirette. Bene, noi ci sembra che insomma evidentemente è difficile sia per la non presenza diretta, la non conoscenza, insomma la non presenza diretta sul territorio, di valutare appieno queste dinamiche che si stanno sviluppando. E quindi questo penso che sia una prima riflessione che riusciamo a fare anche a livello così di propriamente di informazione quanto più vicina alla realtà su questo contrasto interno chiamiamola comunità curda, tra filo-islamisti e sostenitori invece della causa curda, come siamo abituati a conoscere, che sono comunque maggioritarie, penso sia sempre bene ricordarlo. In realtà anche questi islamisti sostengono la causa curda, però in una declinazione molto più conservatrice dal punto di vista dei costumi e della religione. Cioè in realtà quando si formarono al loro tempo, questo è quello che sono riuscita a capire attingendo alle varie fonti turche e curde, il loro scopo era proprio l'instaurazione comunque di uno stato curdo indipendente ma islamico, in cui la sharia fosse il principio discriminatore della padella nella brace, possiamo dire. Esatto. Va bene. Noi ti ringraziamo, cioè un grazie veramente enorme, perché comunque al di là delle difficoltà hai fatto un grande lavoro e ci hai comunque dato delle informazioni di prima mano in ogni caso, che è difficile anche qui trovare. Quindi grazie infinite e sicuramente insomma approfitteremo ancora del tuo aiuto. Grazie Natalia, ciao. Grazie a voi. Allora io comunque vi ricordo che è in corso